Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di politica, in particolare di una tradizione che in Italia non ha mai avuto particolare fortuna e successo, e cioè il riformismo. E ne parliamo attraverso due libri che vengono, il primo dall'interno del PD, perché è scritto da Enrico Morando, che è uno degli esponenti miglioristi più interessanti di quel partito. Il suo libro si intitola Riformisti e comunisti, dal PC al PD, i miglioristi nella politica italiana, è pubblicato da Donzelli, 152 pagine. 17 euro. Enrico Morando è un senatore del PD, come vi dicevo, proviene appunto dall'area riformista del Partito Comunista, quella appunto di cui fu uno dei più importanti esponenti, Giorgio Napolitano. Questa del riformismo all'interno del Partito Comunista è una storia complicata, osserva Biagio De Giovanni nella sua introduzione, dovuta a un carattere di fondo, cioè alla superiorità morale che molti riconoscevano al comunismo e al primato dello strumento partito, che secondo De Giovanni era la cosa più difficile da socialdemocratizzare dal momento che toccava l'effettiva organizzazione del comando politico. Per Morando lo sforzo che ha effettuato il partito dal 1990 ha avuto successo ed è culminato per l'appunto con la nomina di Giorgio Napolitano presidente della Repubblica, ma è stato uno sforzo insufficiente. C'è stata infatti, secondo l'autore, un'autolimitazione per la concezione del partito e per il primato che continua a rimanere dell'idea dell'unità del partito, per l'impossibilità di riconoscere davanti ai militanti di aver sbagliato per tanti anni, per tanti decenni, e per la sostanziale estraneità ai filoni riformisti come il socialismo liberale che attecchivano in altre aree, ma che il Partito Comunista di allora bollava come socialfascismo. E nel libro troviamo appunto la ricostruzione di questo difficile, non concluso percorso verso una composizione tra socialismo e liberalismo che ancora non si è visto. L'altra testimonianza viene invece dall'area socialista ed è di un collaboratore di Bettino Craxi, Bruno Pellegrino, che è stato anche lui senatore, che ha scritto L'eresia riformista, la cultura socialista ai tempi di Craxi, pubblicato da Guerini Associati, 238 pagine, 19,50 euro. In questo libro Pellegrino ricostruisce appunto lo sforzo che fece Bettino Craxi per imporre una cultura riformista all'interno del suo partito, che per troppi anni aveva subito l'egemonia anche culturale del Partito Comunista, e ci dà atto anche del sostanziale fallimento di questo sforzo di Craxi, che culminò nel crollo del Partito Socialista. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno a Bruno Pellegrino. Buongiorno. Nel suo libro lei insiste molto sulla ricchezza del patrimonio teorico, diciamo così, del riformismo socialista, e ricorda anche una frase di Craxi che ebbe a dire: un partito che non ritiene i propri principi superiori a quelli degli altri ha già finito di esistere. Quindi insomma c'era il patrimonio culturale, c'era l'orgoglio, c'è stato per un certo periodo. Come mai tanta difficoltà ad affermarsi del riformismo socialista? Ma io ho provato a focalizzare gli anni del nuovo corso socialista e del lavoro culturale sotto la guida di Craxi, però per farlo ho fatto un percorso un po' più ampio, nel senso che ho cercato di spiegare che eredità arriva al Midas e a Craxi nel 76, facendo questo percorso all'indietro mi sono reso conto, e ho provato a testimoniare attraverso il libro, che la questione del riformismo italiano è una questione che attraversa tutto il Novecento. Il riformismo è una cultura minoritaria anche nel PSI e nella sinistra italiana, perché prevalgono più le culture dogmatiche, insomma non solo la cultura cattolica integralista, ma a sinistra il massimalismo e il comunismo, e quindi questo rende la situazione italiana assai particolare, perché in Europa un caso come quello italiano non c'è e in Italia siamo nel pieno di un'anomalia. Quindi il problema di questa questione, dell'eresia riformista sta tutta qui, nel senso che per tutto il Novecento questa è una cultura che altrove è maggioritaria, ma nella sinistra in Italia risulta essere assolutamente minoritaria. diventa maggioritaria una sola volta, davvero, è proprio con Craxi, perché diventa maggioritaria nel PSI e diventa, diciamo, influente e, fra virgolette, egemone anche nella sinistra italiana, tant'è vero che tutti quanti poi devono cominciare a fare i conti con questa svolta socialdemocratica, liberal socialista e liberal democratica dei socialisti, e quindi, diciamo, affrontare la crisi dell'identità massimalista e comunista della grande parte della sinistra italiana. C'è stata però una città alla quale lei dedica un capitolo, cioè Milano, nella quale questa cultura è stata fortemente presente e molto efficace. Del resto Craxi veniva proprio da Milano. Assolutamente, io ho provato a raccontare che le origini, diciamo che Craxi non arriva nudo alla meta della sua segreteria, perché può, diciamo, attingere a una tradizione plurisecolare, secondo me, che nasce all'inizio dell'Ottocento sull'onda dell'illuminismo e per tutto l'Ottocento poi coltiva, diciamo, il gusto per le riforme. Non è un caso che, diciamo, a Milano, diciamo, si mettono le radici del gradualismo turatiano, e non è un caso che Milano per primo individua il municipio, il comune, non come una macchina rivoluzionaria ma come una macchina del buon governo, e quindi da lì anche la tradizione dei sindaci di tradizione socialdemocratica e socialista, che guidano, tranne la parentesi diciamo del fascismo, il comune per così lungo tempo. Quindi Milano nelle sue viscere ha una tradizione riformista che è servita come forcipe poi per una cultura politica che è la cultura del più antico partito politico dell'Italia del Novecento, insomma a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento. Lei conclude il suo libro con le pagine dedicate alla fine del Partito Socialista, che paradossalmente crolla sotto il crollo del muro di Berlino. Le macerie di quel muro travolgono anche il Partito Socialista. Come spiega questo paradosso, che proprio il socialismo democratico venne travolto mentre gli eredi dei comunisti rimasero illesi da quella caduta? Il paradosso è effettivamente grande. La verità è che con l'89, diciamo, la geopolitica, come è noto, diciamo, europea e internazionale, muta profondamente, e i vantaggi posizionali acquisiti anche dai socialisti, che, diciamo, si muovevano in un contesto in cui alla destra c'era il blocco ex fascista e a sinistra il blocco comunista, viene a cadere. Quindi per il PSI non era vero che diciamo si aprissero le strade del paradiso, ma si aprivano perlomeno le strade del purgatorio, a meno che, diciamo, non si fosse cambiato passo e ritmo, nel senso che forse il compito del riformismo socialista in quegli anni doveva essere quello di non aspettare diciamo, la caduta del comunismo italiano, che ormai era sbriciolato ideologicamente, ma guidare la trasformazione della sinistra italiana e portarla tutta a sintesi sulla tradizione liberal democratica, liberal socialista e socialista democratica. Ecco, questo probabilmente non fu fatto ed è una delle ragioni per cui diciamo, la DC da una parte e il PC dall'altra, che avevano vissuto malamente l'egemonia, fra virgolette, dei socialisti, poi decisero di ricomporre un'alleanza cattocomunista, che poi è quella che ha guidato per un certo tempo il paese e ancora oggi guida la sinistra italiana. Lei non si è soffermato molto su questo periodo, sul fenomeno di Tangentopoli, come mai? In un dibattito sulle idee della politica, secondo me, devono prevalere le idee della politica. Sulla questione di Tangentopoli io lo vedo come un fatto, diciamo, aggiuntivo, non, pur nella drammaticità, diciamo, evidente, no? Nello sconquasso, negli errori commessi. commessi, negli errori pagati e non pagati. Il dunque politico sta da un'altra parte, sta nel fatto che bisognasse, diciamo, in un mondo che era profondamente cambiato, cambiare politica. E in fondo questo non si è fatto. E prima ancora dello scossone di Tangentopoli, che pure ha il suo peso devastante, c'è l'89 che produce degli effetti, diciamo, dirompenti sulla vita politica italiana, sulle regole del gioco, sull'organizzazione dei partiti, che non può essere sottaciuto. Quindi non è un desiderio di sfuggire a quelle sanzioni, ma insomma, io ho provato a spiegare che in fondo il vero, diciamo, artefice della politica italiana, in negativo secondo il mio giudizio, di quegli anni, poi è stato il berlinguerismo, perché lui, Berlinguer, anziché portare il Partito Comunista su una posizione socialdemocratica, l'ha incardinata, unico caso in Europa, sulla dimensione cattocomunista, che è un fatto eccentrico, diciamo, rispetto alla tradizione del continente. E quell'impostazione sull'onda dell'89, quindi della caduta del muro di Berlino, quindi la fine del comunismo, ha dato gambe a una cultura politica di sinistra che ha prodotto i danni che continua a produrre. Grazie a Bruno Pellegrino, autore dell'Eresia Riformista. Ultimi arrivi. Vi segnalo oggi due libri che hanno lo stesso autore, Lawrence Epstein, e riguarda il primo, I comici americani, ed è pubblicato da Sagoma, 18 euro, quando i comici facevano Touchdown, dai fratelli Max ai Blues Brothers, l'esilarante epopea dei team comici d'Italia. È tradotto da Marco Bertoli ed è un libro sulle grandi coppie comiche. Troviamo Stagliolo, i fratelli Max, Gianni Pinotto, Jerry Lewis e Dean Martin. Una storia, questa, dice l'autore, che è uno spaccato della società americana, perché il successo di quelle coppie, della loro comicità, dei loro film, contribuisce a spiegare molti aspetti del carattere americano. L'altro libro, sempre di Lawrence Epstein, sempre pubblicato da Sagoma, si intitola Riso Kosher, risata per risata, l'incredibile storia dei comici ebrei americani, è tradotto da Alessandra Olivieri San Giacomo e riguarda di nuovo un aspetto importante della società americana, cioè il peso che l'ironia, la comicità della cultura ebraica ha avuto nello spettacolo, nella cultura americana. Ricorda infatti Monio Vadia nella sua prefazione che la vicenda della comicità ebraico-statunitense mostra come i tratti specifici di una minoranza, e nella fattispecie una minoranza aggravata da violenti pregiudizi secolari, perseguitata e percepita nel segno di una radicale devianza dalla norma, possa tuttavia influire in modo decisivo sulla nazione che la accoglie. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, passiamo adesso alla narrativa. Vi propongo innanzitutto il titolo di un'autrice di cui abbiamo parlato qualche volta in questa trasmissione, Goliarda Sapienza, un'autrice catanese che è stata riscoperta da pochi anni, è morta nel 1996 e all'improvviso i suoi libri hanno avuto un grande successo. Ne abbiamo parlato qui, in particolare dell'Arte della Gioia. Adesso Einaudi pubblica di Goliarda Sapienza Io Jean Gabin, 128 pagine, 17 euro. Questo è un breve romanzo autobiografico sulla giovinezza della scrittrice, la quale vive durante il fascismo in una famiglia semi-anarchica dominata dal padre, un avvocato socialista che difende appunto tutti i poveracci e gli oppositori del regime, una famiglia nella quale ci sono molti fratelli, amici, parenti, insomma una grande confusione, nella quale matura la passione di Goliarda per il cinema e in particolare per Jean Gabin. Questa passione diventa una sorta di modello travolgente per la ragazzina e diventa il libro su questa passione anche il ritratto di una famiglia, di un'epoca e di una città. Goliarda Sapienza in realtà scrisse questo libro molto tardi, nel 1979, dopo il ritorno a Catania dopo una lunga assenza, e qui rievoca nel libro anche quella Catania che fisicamente non c'era più, anche perché molte zone delle quali ella parla o nelle quali si svolgono alcune scene di questo libro fu distrutta in una operazione di risanamento o di sventramento, a secondo i punti di vista, che fu avviata nel 1954 in strade piccole nelle quali si muovevano ruffiani, prostitute, piccoli delinquenti, ma nelle quali Goliarda Sapienza si muoveva con grande agilità. Sentiamo dal libro della Sapienza la descrizione di un altro quartiere storico di Catania, questo felicemente in vita, la Civita. Come se mi aspettassero, con un breve «Entra, entra, c'è travaglio oggi!» mi andai a sedere sul mio sgabello vicino a mamma in sanguine e le figlie. La Civita, grande quartiere, che dico, grande città nella città, dove tutto ti poteva accadere e dove tutti trovavano il modo di imbrogliare, rubare, creare, competere e anche guadagnarsi il pane onestamente, se onesti si nasceva. Grande Civita dalle straduzze intagliate nella lava, colma di personaggi vivi, acuti e saettanti, fra teste di meduse, draghi alati, leoni, elefanti scolpiti anch'essi nella lava, ma vivi della vita muta e perenne della scultura. Questa vita tracciata senza interruzione da basso a basso, da balcone a balcone, di giorno taceva, ma la notte, col muoversi delle fiamme dei lampioni, intrecciava storie di passione, di delitti e di gioie improvvise. Anche lì, torno ai muri secolari, i pupi appesi dormivano a occhi aperti per riprendere la forza perduta nel grande combattimento della sera prima. Riposa il pupo durante il giorno, si lascia andare a una morte apparente per rinascere ogni notte all'avventura. Una testimonianza letteraria sull'Italia durante il fascismo è quella che ritorna da parte di un grande scrittore morto nel 1978, Giuseppe Berto, di cui Rizzoli ripresenta Guerra in camicia nera. È un libro del 1955, 192 pagine, 9,20 €. Un libro, spiega l'autore, scritto per riconoscere nei miei soldati una sostanza umana comune a tutti i soldati e a tutti gli eserciti, per far sì che la guerra sia veramente perdonata. Berto si era arruolato nel 1942, nonostante che fosse animato, come confessa lui stesso, da una profonda avversione per le divise. Si era arruolato nella Milizia Volontaria della Sicurezza Nazionale e venne assegnato a un battaglione di camicie nere che operava in Africa settentrionale. E questo è un diario cronachistico dai toni quasi giornalistici, ma di grande efficacia letteraria, che finirà nell'attesa dello scontro e poi con la prigionia nelle mani dei francesi. Vi segnalo adesso due libri noir che hanno un carattere in comune, perché gli autori non sono due scrittori di professioni ma due manager. Il primo è il libro di Sergio Grea, che ha lavorato in posizione di grandissima responsabilità nel settore petrolifero e si intitola I signori della sete, è pubblicato da PM, 428 pagine, 19,50 €. Qui siamo negli anni 60, un giovane manager in crisi umana e professionale viene spedito nel Corno d'Africa per curare gli interessi della sua società e qui scoprirà che più che il petrolio l'acqua può rivelarsi una risorsa che determina scontri, complotti, addirittura omicidi. E il libro è anche uno spaccato del clima avvelenato che spesso domina in molte aziende, dove la guerra per il successo può fare molte vittime importanti. Il protagonista deve anche fare i conti con l'integralismo islamico, che comincia a minacciare quegli stati e quell'area nella quale ancora domina il potere di Haile Selassie. Sentiamo per esempio dal libro di Sergio Grea queste righe nelle quali si parla per l'appunto del Negus, che sarebbe stato presto detronizzato e di cui pure nel libro troviamo un interessante ritratto. Abdallah annuisce. La sua tunica è ornata d'oro e alle dita ha anelli che valgono più della mia casa di Menlo Park. Quelli come me hanno contribuito a fare prosperare Gibuti, dice. Ma l'hanno fatto mano nella mano con i francesi e molti dei nostri non ce lo perdonano. Può sembrarle un paradosso, visto quanto si dice dell'unità dell'Islam contro l'Occidente, ma non lo è. Noi ricchi musulmani siamo nel mirino della nostra stessa gente. Abbiamo creato lavoro e benessere, però gli integralisti non ammettono nessuna forma di intesa con gli infedeli. Si accalora e si sporge verso di me. Vede, è tutto assurdo. Io sono nato a Sana'a. Sono venuto qui da ragazzo, ho lavorato duro e ora sono un uomo ricco e grazie a me stanno bene in tanti. Se domani a Gibuti tutto crollasse, perderei case e terre, ma in Svizzera ho denaro a sufficienza per continuare a vivere come vivo adesso. Però quelli che lavorano per me morirebbero di fame. Ecco perché molti islamici hanno votato per la Francia. sia i ricchi che quelli che hanno un lavoro e temono di perderlo. Ma ora gli integralisti aizzati da Mogadiscio ci sparano addosso e ci incendiano case e negozi. Ci accusano di aver tradito l'Islam e usano la violenza. E nello stesso tempo invocano la fratellanza musulmana e ci chiedono sostegno nella lotta per la vittoria finale contro gli infedeli. Ha un gesto di sconforto. Tutto questo è un controsenso. L'altro libro è quello di Nino Troisch, Il coniglio bianco. L'autore è tedesco di origine, ha un passato in borsa, adesso in una multinazionale nel settore telefonico, che descrive il suo mondo nel libro Il coniglio bianco, pubblicato da De Agostini, 18,50 euro. Un altro libro, questo però trasportato nell'oggi, in cui di nuovo assistiamo, attraverso le vicende di un delitto, alle dure lotte che si possono avviare all'interno delle grandi multinazionali. E a questo punto il confettino. Vi propongo un'altra indagine, quella di Kate Davis, Lo strano caso dei criceti scomparsi, illustrato da Anna Shaw e pubblicato dal Castoro, tradotto da Caterina Cartolano, 182 pagine, 12,50 euro. È un libro adatto alle vacanze, perché si avvia proprio con una misteriosa scomparsa di alcuni animaletti, appunto dei criceti ricevuti in dono, sulla quale scomparsi indagheranno due fratelli che hanno da poco iniziato le loro vacanze, come molti degli ascoltatori del confettino. E con questo ringrazio Vittorio Mussini in redazione, Paolo Corleone in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, sul quale potete ascoltare questa trasmissione e tutte le altre. Vi segnalo anche che dal prossimo fine settimana l'appuntamento con la replica di questa trasmissione sarà alle 21.30 del sabato, e quindi ci possiamo risentire alle 21.30 del sabato e poi naturalmente la domenica alle 13.30. E con questo vi do appuntamento alla settimana prossima e vi auguro buona settimana.